Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. G8 di Genova, per il blitz alla Diaz assolto, l'ex capo della polizia De Gennaro era accusato di falsa testimonianza. Mondo politico in attesa della decisione della Corte Costituzionale, forse nel pomeriggio la sentenza sul lodo Alfano. L'Unione Europea apre una procedura contro l'Italia per deficit eccessivo. Non è solo per la crisi, dice Bruxelles, ma uno sforamento strutturale. Napoli presentato il nuovo allenatore Mazzarri, per me è il top, dice. Tornano voci di una vendita del Milan, ma Fininvest smentisce. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione. In apertura dunque la sentenza arrivata questa mattina con rito abbreviato per l'ex capo della polizia Gianni De Gennaro nell'ambito del processo per il G8 di Genova. Tutti i dettagli in diretta da Andrea Ferro. Andrea. Sì, buongiorno da Genova. L'allora capo della polizia Gianni De Gennaro non ebbe alcuna responsabilità nel blitz alla scuola Diaz scattato la sera del 21 luglio 2001 nei giorni del G8 di Genova. Tantomeno condizionò l'ex questore del capoluogo ligure, Francesco Colucci, a modificare in aula la sua verità su quella sera affinché fosse escluso ogni suo coinvolgimento, anche a proposito dell'invio alla Diaz di Francesco Sgalla, all'epoca responsabile delle relazioni esterne della polizia. A sancirlo stamane è stato il gruppo Silvia Carpanini, che dopo un quarto d'ora di Camera di Consiglio ha assolto De Gennaro, oggi ai vertici del DIS, e l'allora dirigente della Digos di Genova, Spartaco Mortola, dall'accusa di induzione alla falsa testimonianza. I due avevano chiesto di essere giudicati con rito abbreviato. Diversa invece la scelta difensiva di Colucci, oggi prefetto, imputato per falsa testimonianza, che contestualmente alla sentenza stamane è stato rinviato a giudizio. Per De Gennaro i due PM Zucca e Cardona Albini avevano chiesto la condanna a 2 anni di reclusione, 1 anno e 4 mesi invece era la pena invocata per Mortola. Stamane De Gennaro non era presente in aula. Le prime reazioni da parte degli avvocati: il collegio difensivo di De Gennaro esprime soddisfazione, dicono è stata dimostrata l'estraneità e l'assenza di qualunque interesse o movente per De Gennaro di fare modificare la versione dei fatti di Colucci, mentre il legale di parte civile Laura Tartarini manifesta stupore e dice di attendere le motivazioni della sentenza. Per il momento da Genova è tutto. Simone, ti restituisco la linea. Grazie Andrea Ferro per questi aggiornamenti. Al G8 del 2001 Luigi Fazio era sovrintendente di polizia, è stato condannato ad 1 mese per aver, citiamo testualmente, strattonato e piegato un braccio e colpito al volto un giovane che era nella scuola. La scuola era la Pascoli, accanto alla Diaz, dove avvenne un'irruzione sbagliata. Fazio ha lasciato la polizia da tempo perché disse aveva capito che si scaricava tutto sui livelli bassi. Poco meno di un anno fa definì una vergogna la sentenza che ha assolto i vertici della polizia dall'accusa di aver ordinato le violenze. Paolo Piacenza lo ha intervistato per sentire la sua opinione sulla soluzione di oggi. Se noi analizziamo bene i fatti processuali accaduti, possiamo dedurre che io ho organizzato il servizio del G8, io ero responsabile di tutte le forze dell'ordine. Io ho fatto fare l'irruzione alla scuola. Perché questo? Perché solo a me mi hanno condannato 1 mese. Sul piano morale, no? Sul piano morale, ma non tanto per me singolo, ma almeno nei confronti, parliamo di trasparenza nelle forze, sul piano morale, insomma, qualcuno avrebbe dovuto pagare. Qui c'è una sentenza di assoluzione per un fatto specifico che è relativo appunto alla falsa testimonianza supposta dai PM in riferimento alle dichiarazioni dell'ex questore Colucci, no? Lei ha dei dubbi sull'esito della sentenza, da quello che capisco. Ecco, ho dei dubbi, sì, ma se lo stesso questore prima verbalmente ai verbali aveva dichiarato che comunque aveva ricevuto quello da Di Gennaro, cioè un questore che non è un pinco pallino che si trovi per strada un mezzo drogato che dice quello che gli pare, no? Verrà assolto pure lui, ormai ha preso questa piega e c'è poco da fare, questa è la, ripeto, io sono rimasto io l'unico colpevole 1 mese. Quindi lei si aspetta un'altra sentenza di assoluzione anche per Colucci in futuro? Sì, secondo me sì. E ora passiamo a parlare del lodo Alfano con la Camera di Consiglio della Corte Costituzionale e una sentenza sul lodo Alfano appunto che si presume arriverà nel pomeriggio. Sta seguendo i lavori della Consulta la nostra Alessandra Schepisi. Allora Alessandra, che cosa succede? Sì, buongiorno. Buongiorno, sono riuniti da 4 ore in Camera di Consiglio i giudici della Corte Costituzionale. Tra pochi istanti la seduta verrà sciolta, dovrebbe riprendere alle 15.30, tempi serrati, una lunga giornata interamente dedicata all'esame del lodo Alfano, cioè dello scudo processale nei confronti delle 4 più alte cariche dello Stato. I giudici devono stabilire se rispetta o meno la Costituzione. 3 le ipotesi: ammissione della costituzionalità, quindi via libera alla legge, bocciatura totale, in questo caso potrebbero riaprirsi i processi a carico del premier Berlusconi, sospesi appunto dal lodo Alfano, oppure ipotesi di compromesso, una bocciatura parziale con l'impegno del governo di modificare le parti giudicate negative. Questa sembra la soluzione più accreditata, che godrebbe di una maggioranza più ampia. Quanto ai tempi, i giudici punterebbero a chiudere questa sera, al massimo domani mattina, nel pomeriggio di domani, infatti alcuni di loro sono attesi in Portogallo. La seduta comunque è a porte chiuse, la decisione verrà comunicata con una nota della Cancelleria. Mi riferisco in questo momento che la seduta appunto è stata sospesa per riprendere poi alle 15.30. Da Roma per ora è tutto, a voi la linea. Grazie Alessandra per questi aggiornamenti. Naturalmente la grande attesa è a Montecitorio e dintorni, insomma, nel mondo politico. Vincenzo Miglietta, che cosa succede questa mattina? Quali sono le posizioni in campo? Buongiorno, maggioranza ed opposizione si confrontano sui possibili scenari in vista della pronuncia della Corte Costituzionale. In caso di bocciatura del lodo Alfano sembra perdere però consenso alla strada di un ricorso alle urne, mentre da alcune parti, soprattutto dall'opposizione, si ventila la nascita di un governo tecnico. Dalla maggioranza tuttavia si ribadisce: andremo avanti per tutta la legislatura. Con il passare delle ore comunque dal centrodestra trapela un certo ottimismo sulla pronuncia della Consulta. Lo stesso Berlusconi sarebbe fiducioso, la conferma arriva dal capogruppo vicario del PDL alla Camera Bocchino. Sentiamo. Berlusconi è di ottimo umore ed è anche ottimista sulla decisione della Corte Costituzionale rispetto al lodo Alfano. Siamo convinti di aver fatto una buona legge e siamo pronti a valutare tutte le scelte che autonomamente la Consulta farà. La bocciatura del lodo Alfano sarebbe dannosa per il Paese, perché obbligherebbe il Premier a difendersi nei processi e quindi a togliere del tempo all'azione di governo, ma ciò non toglie che la maggioranza è stabile, rimarrebbe stabile, e siamo convinti di voler andare avanti fino a fine legislatura. Sbaglia chi pensa che un'eventuale bocciatura del lodo possa aprire nuovi scenari politici. Questa dunque la posizione della maggioranza. Il centrosinistra poi, in caso di bocciatura del lodo Alfano, temo reazioni poco democratiche, dice dal PD Franceschini. Il lodo Alfano è un falso problema, commenta invece l'UDC, per il quale l'emergenza per gli italiani è economica. Sentiamo su questo Vietti. Tutti si cimentano a fare i giuristi in questi giorni. Io credo che il giorno dopo la sentenza l'Italia continuerà ad avere di fronte tutti i suoi problemi. La questione non è se Berlusconi ha tempo e modo di difendersi nei suoi processi, ma se lui e la sua maggioranza sono in grado di affrontare i grandi problemi del Paese, le emergenze del Paese, prima fra tutte quella economica. In chiusura, Simone, una puntualizzazione arrivata dal Presidente del Consiglio Berlusconi. Il Premier si è detto sdegnato per alcune ricostruzioni giornalistiche secondo le quali avrebbe fatto ricorso a servizi segreti stranieri contro un presunto piano antinazionale. Da Roma è tutto. Grazie Vincenzo per questi aggiornamenti. E di politica si è occupato il nostro sondaggio di oggi. Sentiamo che cosa è emerso. Beppe Grillo fa sul serio ed è pronto a scendere in politica, una mossa che divide gli ascoltatori di Radio 24. Il nostro sondaggio di oggi prendeva spunto dalla decisione del popolare comico genovese di lanciare un movimento per le prossime regionali. Ma l'Italia ha bisogno di un Beppe Grillo in politica? Vi chiedevamo questo e hanno prevalso i no, anche se di poco, il 56%, nel sondaggio più votato finora di Radio 24. A difendere la scelta di Grillo è Sonia Alfano, eurodeputata dell'Italia dei Valori, grillina della prima ora. Da troppo tempo molti politici, non tutti, ma molti politici fanno i clown, fanno i pagliacci, mangiano la mortadella in Parlamento. Guardate che non siamo stati noi a denigrare la politica o ad attaccare. Quindi a questo punto, se un comico decide di continuare a metterci la faccia, sapendo di essere poi impopolare, per cercare di svegliare soprattutto le generazioni più giovani, io credo che questo sia soltanto da ammirare. Bianco o Nero torna domattina alle 8.30. Per votare basta un clic su radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Adesso parliamo dei Nobel per la chimica. Adriana Fracchia. Sì, buongiorno. Il Nobel per la chimica 2009 è stato assegnato oggi al britannico di origine indiana Venkatraman Ramakrishnan, del laboratorio laboratorio di biologia molecolare di Cambridge in Gran Bretagna, all'americano Thomas Tetz dell'Università di Yale in Connecticut e all'israeliana Ada Yonat del Weizmann Institute of Science di Rehovot in Israele. È la quarta donna alla quale viene assegnato un Nobel per la chimica. L'Accademia Svedese delle Scienze ha premiato i 3 ricercatori per i loro studi sulla struttura e sulla funzione dei ribosomi, le strutture cellulari che fabbricano le proteine. Abbiamo qui in studio Federico Pedrocchi, il conduttore della nostra trasmissione Möbius, che ci spiega l'importanza di questo premio. Buongiorno Federico. Buongiorno. Allora, la motivazione estesa precisa è veramente appena arrivata, quindi ci vorrà ancora qualche ora per capire esattamente di che si tratta. Questi 3 scienziati hanno usato una tecnica che è la cristallografia a raggi X, che consente di, come dire, capire bene com'è la struttura di questi ribosomi. Quello che può essere interessante è cercare di capire la funzione di questi ribosomi. Allora, il codice genetico contenuto nel DNA è il dizionario, cioè un vocabolario, per esempio, di italiano. Lì dentro ci sono tutte le parole, quindi c'è dentro anche l'Orlando Furioso e Gomorra di Saviano. Però la letteratura è questa, cioè non possiamo dire che leggendo un dizionario proviamo lo stesso piacere a leggere i romanzi di Maigret, per esempio, per chi ama i gialli. Allora ci vuole qualcosa che usi il dizionario per creare quelle strutture che sono i romanzi, tornando alla biologia, che sono la vita. Ecco, si è capito da qualche tempo che la vera complessità, insomma, della vita sta nella proteomica, ovvero la scienza che studia come si crea quel numero inverosimile, immenso di proteine che costituiscono gli esseri viventi. Ebbene, molto semplicemente, i ribosomi sono strutture presenti nelle cellule che traducono il dizionario del DNA, che è fatto di aminoacidi, prendono questi aminoacidi e li dispongono con una certa forma geometrica che genera una certa proteina. In un certo senso possono essere paragonati all'autore o all'autrice di romanzi. Da una parte c'è il dizionario, le parole, lui crea e sì, abbiamo un libro. Bene, chiarissimo Federico, grazie per questa spiegazione. Vi ricordo che domani ci sarà invece verrà proclamato il Nobel per la letteratura, c'è molta attesa per conoscere chi sarà il vincitore. Si parla di Philip Roth, ma anche di Cormac McCarthy, si parla di Amos Oz e per quanto riguarda gli italiani i possibili candidati sono Claudio Magris e Antonio Tabucchi, ma vedremo appunto domani. Per il momento è tutto, linea allo studio. Grazie Adriana per questi aggiornamenti e grazie naturalmente anche a Federico Pedrocchi. In chiusura di questa prima parte parliamo di musica, di Pippo Pollina, cantautore palermitano che come Paolo Conte o Gianmaria Teste è diventato famoso all'estero prima che in Italia. Festeggia il suo compleanno musicale con il CD Fra due isole e un nuovo tour in numerosa compagnia. Come festeggiare 25 anni di musica? Con un disco, un concerto, anzi un tour? Meglio tutti insieme. Lo sta facendo Pippo Pollina. E ci sono sguardi in ogni angolo. Siciliano in Svizzera, un pubblico affezionato anche in Italia e per questo girerà tutta l'Italia, da nord a sud, insieme all'Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Zurigo. Un successo nato anche grazie al passaparola in rete. Uno spettacolo dove la dimensione sinfonica e la dimensione, diciamo così, autorale della chanson potessero trovare un luogo comune, un punto di incontro. Secondo me c'è sempre più esigenza oggi di percepire l'artista per l'uomo che rappresenta, per quello che è. Ma si sa naturale, secondo me, che il pubblico comunichi con questo passaparola via internet, la rete gioca sempre un ruolo più importante da questo punto di vista. Una festa per Pollina e per i fan, ma anche una singolare esperienza musicale e di vita. Ci spostiamo con 3 bus da 30 persone l'uno e so che ci sono tutti gli strumenti musicali. E diciamo una grande esperienza comunitaria perché viaggiamo tutti insieme, facciamo musica ma si vive praticamente 3 settimane tutti insieme. Infatti stiamo anche girando un documentario su questa esperienza musicale. Ogni scusa è buona per festeggiare, via. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Nella prima parte del giornale radio abbiamo parlato della sentenza di assoluzione per l'ex capo della polizia Gianni De Gennaro nel processo per il G8 e abbiamo parlato dell'attesa per un'altra sentenza, quella della Corte Costituzionale sul lodo Alfano. Abbiamo anche parlato dei Nobel per la chimica. Adesso ci occupiamo di economia perché, come era nelle attese, oggi l'Europa ha aperto una procedura per deficit eccessivo nei confronti di una serie di paesi. Tra questi paesi c'è anche l'Italia. Non è ancora procedura per deficit eccessivo, ma siamo sulla soglia e con noi altri 8 paesi. La Commissione europea ha presentato infatti il rapporto sui conti pubblici richiesto dal patto di stabilità e di crescita come primo passo verso l'apertura di un dossier. Il deficit programmato dal governo italiano al 5,3%, scrivono a Bruxelles, va oltre e non è prossimo al valore di riferimento del 3%. Il debito poi, programmato al 115,1% del PIL nel 2009, per la Commissione europea non diminuisce in maniera sufficiente. E se da un lato tali sforamenti vengono considerati eccezionali, in buona parte dovuti alla severa recessione alla quale per l'Italia seguirà una ripresa molto moderata nel 2010, dall'altro la situazione di deficit eccessivo non viene giudicata temporanea, ma strutturale. Oltre all'Italia, le procedure riguardano Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Slovacchia, Slovenia, Olanda e Portogallo. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed è appena arrivata una nota del Ministero dell'Economia che dice che la situazione italiana per quanto riguarda il deficit non è eccezionale, oltre il 90% del PIL europeo, dice ancora il Ministero, è in deficit eccessivo. Questo è quello che risponde via 20 settembre. Intanto, a causa della crisi, c'è un'importante casa di moda italiana che lascia un paese forse non molto importante dal punto di vista del fatturato, ma certamente simbolico. Negli anni 80 e nei primi anni 90 il Giappone era diventato l'eldorado dei marchi del lusso. I consumatori locali erano non soltanto seguaci maniacali della moda, ma anche appassionati di qualità e conoscitori del Made in Italy e dell'artigianalità. Una combinazione ideale per brand e stilisti come Armani, Versace e Ferré, che diventarono in Giappone vere e proprie star. Ma negli anni il vento è cambiato, il paese è entrato in una spirale di deflazione da cui ancora oggi stenta a uscire, che ha depresso ogni tipo di consumo, a partire da quelli di moda e lusso. Un'ulteriore conferma arriva oggi dal Nikkei, il quotidiano economico ha annunciato che entro la fine dell'anno la controllata giapponese della Gianni Versace, costituita nel 1981, verrà liquidata. Il Giappone è un mercato importante, quindi speriamo di tornare nuovamente l'anno prossimo aprendo negozio e potenziando la distribuzione wholesale, scrive il Nikkei citando un comunicato ufficiale della società, che dal quartier generale di Milano conferma. Abbiamo chiuso 3 negozi che erano comunque da rifare, ma entro il 2010 ne riapriremo almeno uno. Giulia Crivelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Siamo alla cronaca per parlare della situazione a Messina dopo l'alluvione. La cifra resta ferma a 25 vittime e 10 dispersi che, come ha detto ieri il capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, probabilmente non saranno ritrovati vivi. La cronaca. A Messina si continua a lavorare per liberare dal fango i centri investiti dalla frana della scorsa settimana. Da 2 giorni a Scaletta sono in azione 2 nuovi mezzi. Si tratta di escavatori a risucchio in grado di aspirare, grazie ad un particolare sistema meccanico, fanghi eterogenei di qualsiasi forma e densità. Ad acquistarli un privato che li ha concessi a noleggio alla Protezione Civile. Resta per il momento transitabile solo dai mezzi di soccorso il bypass alternativo della statale 114 e fra le macerie si continua ancora a scavare. Nessuna notizia ancora di Ketty De Francesco, la ragazza inghiottita dal fango e trascinata probabilmente a mare. Avrebbe dovuto sposarsi il prossimo 4 novembre. Al momento della sua scomparsa era al telefono con il suo fidanzato e mano nella mano con un'amica. Un fulmine forse l'ha colpita facendola svenire. Il fango poi l'ha trascinata via. Nadia Maio, GR24, Il Sole 24 Ore, Messina. Un aggiornamento di politica riguarda la questione del lodo Alfano ed è una dichiarazione del leader della Lega, Umberto Bossi. Dice Bossi: se la Consulta dovesse bocciare il lodo, noi potremmo entrare in funzione solo trascinando il popolo. Il popolo lo abbiamo, sono i vecchi galli. Queste le parole di Umberto Bossi. Abbiamo parlato di Messina, restiamo al sud per parlare della cosiddetta nave dei veleni in Calabria. Ne ha parlato questa mattina il ministro dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo. Il recupero dei fusti della nave dei veleni avverrà, una volta conclusa l'indagine, in tempi rapidissimi. Parola del ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo. Per recuperare i fusti della nave tossica che giace sui fondali del Tirreno calabrese occorrerà affidarsi, ha precisato il ministro, a una società in grado di farlo. Non credo che siano molte le società in Italia ad avere queste attrezzature, quindi insomma valuteremo qual è la modalità più rapida, chiaramente eventualmente non lo so, attraverso la protezione civile, insomma faremo in modo che il recupero avvenga in tempi rapidissimi, ma prima ancora del recupero è doveroso dire l'accertamento che si tratti della nave di cui parla il collaboratore di giustizia. Il Ministero dell'Ambiente intanto oggi ha siglato un protocollo d'intesa con la Direzione Nazionale Antimafia per rafforzare le attività investigative nella lotta alle ecomafie attraverso uno scambio reciproco di informazioni. Chiara Di Michele, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. E restiamo in Calabria perché stanno facendo discutere in queste ore le parole dette in un concerto avvenuto in Sicilia da Antonello Venditti. Ascoltiamole. Perché Dio ha fatto la Calabria? Perché? Io spero che si faccia il ponte e almeno la Calabria esisterà. Veramente, io a questo punto sto... Perché qualcuno deve fare qualcosa per la Calabria. Cioè, lo sapete che mi è successo? Che un ragazzo calabrese, partiva da Reggio Calabria, io prendevo il traghetto e vedevo che lui leggeva e questo calabrese veniva in Sicilia, perché in Sicilia trovava una ragione, la cultura, eccetera. In Calabria non c'è veramente niente, ma niente che sia niente. Della proposta della Lega vi abbiamo parlato ampiamente, almeno dell'ultima, l'arresto in flagranza, reclusione fino a 2 anni e multa fino a 2.000 euro in sostanza per chi indossa il niqab o il velo integrale. Ebbene, una discussione simile, naturalmente non con questi toni, si sta svolgendo anche nel mondo arabo. Non accenna a placarsi la bufera scatenata dagli islamici in tutto il mondo arabo per la messa al bando del velo integrale voluta dal capo della più autorevole istituzione islamica nel mondo, l'Università Egiziana di Al-Azhar. Insulti e dileggio nei siti web qaidisti che chiedono la testa dell'imam Tantawi, che la settimana scorsa ha costretto una scolara di togliersi il niqab. Forti critiche da parte di importanti ulema sauditi. Per la giornata di oggi un partito islamico egiziano ha annunciato un sit-in all'ingresso della città universitaria del Cairo. Studentesse con il niqab protesteranno contro il divieto imposto dalla polizia di farle entrare coperte per motivi di sicurezza. La rivoluzionaria presa di posizione del sommo capo di quello che per i musulmani sunniti è considerato alla stregua del Papa per i cattolici trova però non pochi consensi tra i moderati. Il velo integrale che copre il viso non è stato mai citato nel Corano né tantomeno negli editti del profeta, ha commentato un autorevole esponente del centro di ricerca islamica del Cairo. Adif Tahali, GR24, Il Sole 24 Ore. Siamo in chiusura, parliamo di sport con il calcio. La Fininvest ha smentito questa mattina una trattativa per la cessione del Milan. Nelle ultime ore si era fatto avanti il petroliere albanese Taci. Nel modo più perentorio ed assoluto, così si legge nel comunicato, la holding che controlla il Milan ha negato esista la volontà di vendere il club rossonero. D'altronde, nelle sue sortite sui media, l'imprenditore Reza Artaci lo aveva detto: Berlusconi non intende cedere il Milan, ma se decidesse di farlo prenderebbe sul serio la mia proposta. Sul tavolo Taci ha messo Fish per 700 milioni e promette di rinforzare la squadra. Il mio gruppo fattura 7 miliardi, fa sapere, e sono abituato a mantenere gli impegni. Non potrebbero dire lo stesso da Bologna, la squadra che Taci tentò di acquistare in estate prima di rinunciare, si dice proprio perché è avvisato dell'opportunità di puntare più in alto. Per Iglitare, direttore sportivo della Lazio e connazionale del petroliere albanese, l'ipotesi del Milan a Taci è realistica. Che è una cosa credibile, io non posso metterlo in dubbio, perché uno che ci mette o si mette, diciamo, a disposizione di acquistare un club importante o di un'importanza mondiale come il Milan, non penso che non è una cosa credibile. Io della persona, da quello che lo conosco, posso dire solo cose positive. A 38 anni Taci è il proprietario di un vero e proprio impero petrolifero. Con la sua Taci Oil ha acquistato a prezzi di saldo la Armo, ex compagnia statale. Ora controlla il 50% del mercato della benzina in Albania. Massimo Di Scienza, GR24, Il Sole 24 Ore. Andiamo a Napoli, dove il presidente De Laurentiis ha presentato il nuovo allenatore Walter Mazzarri. Ascoltiamo le prime parole da tecnico del Napoli. Napoli è una piazza talmente importante che può essere un punto d'arrivo. Il bacino d'utenza che c'è in tutto il mondo, mi sembra sia il quarto d'Italia, no? Quindi è una grande piazza. Poi oltretutto conosco anche proprio il calore che sa trasmettere una città e una tifoseria così, quindi da questo punto di vista è il top. Infine la nazionale, che prosegue il lavoro a Coverciano in vista della sfida delle qualificazioni mondiali di sabato in Irlanda. Lesione al menisco per Claudio Marchisio, che resta nel gruppo fino a venerdì, quando si conoscerà l'entità dell'infortunio. Ed è tutto per questa edizione di GR24, condotta e curata da Simone Spezia e con in regia Carmelo Lauricella. Al coordinamento Maria Piera Ceci, il prossimo giornale radio alle 14. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.